America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, buon anno, siamo nella prima settimana dell'anno e sto cercando di darvi un quadro di quello che potrebbe capitare dal punto di vista così politico, economico, geopolitico con la nuova amministrazione Trump nel 2017. Uplifting ISIS's dark curse from Iraq begins here. Trying to hit a spectral fleeting enemy lit only by the glow of Mosul. Trump ha promesso che una delle sue più importanti iniziative di politica estera sarà quella di debellare l'ISIS. Sappiamo che gli Stati Uniti con Obama hanno cercato in vari modi di contenere l'espansione dell'ISIS. C'è anche un attacco in corso su Raqqa, c'è stata la ripresa di Sirte in Libia. Insomma, c'è un'offensiva generale che punta al contenimento di questo gruppo terroristico che ha creato non poche preoccupazioni, drammi e lutti anche in Europa. Il Medio Oriente, insomma, sarà al centro della politica di Trump. E io con me ai microfoni di America 24, Maurizio Molinari, direttore della Stampa, ma anche ex corrispondente non solo da Washington, quindi conosce straordinariamente bene l'America, abbiamo lavorato insieme molti anni, ma anche proprio da Gerusalemme. Buongiorno Maurizio. Buongiorno a voi. Cosa farà Trump in Medio Oriente? Non c'è dubbio che l'amministrazione Obama lascia un Medio Oriente in disgregazione con Putin principale attore. Proprio per questo l'attenzione è tutta su Donald J. Trump. E le due mosse che fino a questo momento Trump ha compiuto lasciano intendere che potrebbero esserci delle novità importanti. La prima ha a che vedere con i nomi dei generali che lui ha scelto per la sua amministrazione. Flynn come consigliere per la sicurezza e Mattis al Pentagono sono due persone di forte esperienza, facevano parte del team di Petraeus e McChrystal che sgominò Al-Qaeda nel nord dell'Iraq. Sono persone che conoscono la tattica dell'antiguerriglia e soprattutto dell'alleanza con le tribù, ma sono nei confronti dei loro nemici spietati. E spietato è nei confronti dei jihadisti anche Vladimir Putin, che è il leader con cui Trump ha più in comune nell'approccio al Medio Oriente, ovvero la volontà di chiudere la partita con i jihadisti, di sconfiggerli. Se noi facciamo attenzione al linguaggio che Putin adopera contro ISIS, è molto simile a quello di Trump. La possibilità che sulla tattica militare si trovino alleati e quindi possano convergere nella composizione delle crisi aperte, a cominciare dalla Siria, è il primo grande interrogativo di quest'anno. Ecco, ma come possono ricomporre le differenze che ci sono sulla Siria? Uno degli elementi di differenza fra Obama e Putin è che Obama sul tema del jihadismo è stato spesso ambiguo. Innanzitutto non lo nominava mai come avversario e ha avuto in passato un atteggiamento ambiguo sul tema dell'Islam politico, arrivando ad esempio in Egitto a sostenere i candidati dei Fratelli Musulmani. Queste sono posizioni alle quali Putin si è sempre opposto e alle quali si è opposto in campagna elettorale nei dibattiti che abbiamo seguito assieme Mario, anche Donald Trump. Il fatto di avere una posizione più dura contro i jihadisti è quello che Putin si aspetta dal nuovo presidente americano. Questo sarà il primo elemento e sicuramente il terreno su cui misurarlo sarà la Siria. Serve in Siria un'intesa fra americani e russi, non c'è dubbio che un ostacolo sono le perplessità sul ruolo della Russia che ancora albergano nel congresso di Washington, ma dissiparle potrebbe essere un interesse congiunto tanto del Cremlino come della Casa Bianca. Ecco, l'impatto, Maurizio, sulle relazioni fra palestinesi e israeliani. Friedman è un personaggio controverso. Ma io credo che la scelta del nuovo ambasciatore vada incontro da parte di Trump alla necessità di novità sul terreno. Non c'è nessun dubbio che lo schema tradizionale dei due stati non è più sostenuto oramai né dalla maggioranza degli israeliani né tantomeno dalla maggioranza dei palestinesi che lo apparentano alla leadership corrotta di Al-Fatah, prima di Arafat e adesso di Abu Mazen. Servono novità sul terreno, servono nuove idee e un nuovo approccio. E quali potrebbero essere queste nuove idee? Io credo che se ci fosse una convergenza fra Trump e Putin anche su questo argomento, noi potremmo essere in presenza di una cornice completamente nuova, anche perché sul tavolo c'è l'iniziativa di pace saudita del 2002 che offre a Israele la completa riconciliazione con tutti i paesi arabi musulmani in cambio del ritiro dai territori che Israele acquistò nella guerra del 1967. Il premier israeliano Netanyahu si è detto a favore di questa iniziativa in cambio di una correzione dei confini, e quindi c'è un terreno di possibile incontro e potrebbero venire delle novità importanti, ma bisogna muoversi, spostarsi dalla rigida difesa della formula dei due stati, perché ha dimostrato negli ultimi 20 anni che non porta da nessuna parte. Ecco, Libia, Sirte, stabilità, rifugiati. A noi italiani interessa sicuramente in primo luogo quanto avviene in Libia. A tale riguardo è interessante notare che uno dei due attori, il generale Haftar di Bengasi, alleato di ferro dell'Egitto e avversario del governo di Tripoli, a cui invece guarda l'Italia, ebbene Haftar è un alleato della Russia di Putin. Non solo, ma Haftar ha fatto appello alla Russia affinché intervenga in Libia come è intervenuta in Siria per aggiustare una crisi che altrimenti rischia di far sparire dalla carta geografica ciò che resta della Libia. E anche qui il vero interrogativo è se gli Stati Uniti, che fino adesso hanno sostenuto l'Italia nel stare a fianco di Tripoli, e la Russia, a cui guarda Haftar, possano contribuire a superare l'attuale fase di grave difficoltà. E potrebbe esserci in questa cornice un ruolo importante per il nostro paese, per l'Italia, che ospiterà il G7 a Taormina. Ecco Maurizio, per chiudere, c'è un livello superiore, no, in questa partita a scacchi. Tu hai menzionato prima l'Arabia Saudita, c'è anche l'Iran, c'è Trump che vuole smantellare l'accordo nucleare con l'Iran, c'è la Turchia che è un paese di straordinaria influenza ma che sta dimostrando di essere sempre più assolutista. Ecco, tu vedi che possa esserci un binomio Trump-Putin anche per calmare le acque in questo contesto? E se davvero ci fosse questo binomio nel giro di pochi mesi, se anche su altri teatri, per esempio l'Ucraina, si dovessero trovare delle soluzioni, possiamo ipotizzare una partecipazione di Putin al G8, una chiusura nel giro di 6 mesi di quella che è stata la crisi iniziata con l'invasione dell'Ucraina? Io non credo che Trump smantellerà l'accordo con l'Iran, credo che invece chiederà all'Iran un rispetto più fiscale, più rigido delle intese concordate con l'amministrazione Obama. In questo ci sarà una differenza di approccio che potrà aumentare la credibilità di Trump nei confronti e davanti ai regimi sunniti, agli stati sunniti, che si sono sentiti traditi dalla scelta di Obama di avvicinarsi troppo a Teheran. In questa dinamica fra sunniti e sciiti attorno a Trump si può benissimo immaginare un nuovo punto di convergenza con Putin, e questo in realtà, se lo mettiamo assieme ai tasselli dei quali fino adesso abbiamo discusso, dalla Siria al conflitto arabo-israeliano alla Libia, la realtà vera, Mario, che quanto può avvenire è che Trump e Putin trovino nello scenario di maggiore crisi del pianeta, il Medio Oriente, il Nord Africa, l'implosione del mondo arabo-musulmano, un punto di raccordo, il punto da dove iniziare a lavorare assieme. Se questo avvenisse, allora non solamente la Russia avrebbe le porte aperte per tornare nel G7 riportandolo a G8, ma potrebbe anche crearsi una cornice per affrontare in maniera diversa e più distesa le altre crisi fra Russia e Stati Uniti, a cominciare dall'Ucraina. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno, Maurizio. Allora, abbiamo cercato così di dare un quadro di quello che potrebbe succedere in Medio Oriente. Cosa ti viene in mente come canzone? A me mi viene in mente The Sound of Silence di Simon & Garfunkel, perché, Mario, veniamo da un anno di rivoluzioni, di guerre, di brutalità, e credo che dobbiamo scommettere sulla speranza, sulle note di questa straordinaria canzone. Sound of Silence, un'altra delle mie favorite di Simon & Garfunkel. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again.